Le intercessioni. Le diverse preghiere eucaristiche sono complementari tra di loro. Ciascuna illustra o sviluppa aspetti accennati nelle altre, contribuendo in questo modo a far risaltare ancor più palesemente le insondabili ricchezze del mistero eucaristico. Quando si fa uso del canone romano, assaporiamo queste parole: Te igitur, clementissime Pater. La Chiesa ci invita a metterci nelle mani onnipotenti di Dio Padre mediante il sacrificio che si offre per Iesum Christum, Filium Tuum, Dominum Nostrum, per Gesù Cristo, suo Figlio e nostro Signore, il quale è nostro Capo. Possiamo ripetere con forza, soltanto a te, Dio Uno e Trino, desideriamo rivolgere tutta la nostra esistenza. La preghiera eucaristica terza mostra che la nostra fiducia nella misericordia del Signore si fonda sulla sua bontà infinita, fonte ultima di tutti i beni e perfezioni con i quali costantemente ci benedice. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Non ci rallegra la partecipazione a questo olocausto perfetto, che in ogni istante e da ogni luogo si innalza dalla terra al cielo, portando a compimento quello che era stato annunciato dagli antichi profeti? Formuliamo il proposito di unirci con tutto il cuore alle messe celebrate nel mondo intero, offerte sempre, anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, diffusa su tutta la terra. Giovanni Paolo II scriveva che persino quando viene celebrato sul piccolo altare di una chiesa di campagna, l'Eucaristia è sempre celebrata in certo senso sull'altare del mondo. Essa unisce il cielo e la terra, comprende e pervade tutto il creato. Nessun fedele rimane escluso dai frutti del Santo Sacrificio. La Messa ci offre la più grande manifestazione dell'amore di Dio per gli uomini e dell'amore degli uomini per Dio e tra di loro. Ci mostra la realizzazione perfetta della comunione dei santi, perché ci assicura che non ci troviamo mai soli. In ogni istante e da ogni luogo si eleva il sacrificio del nostro Pontefice Supremo, nel quale abbiamo la certezza di ottenere tutte le grazie necessarie per la salvezza. Desideriamo acquisire questa dimensione della vita contemplativa. Non dimentichiamo che lo stesso Signore ci dà tale possibilità, fortifica la nostra determinazione di vivere per Lui. Concentriamoci anche su ciò che chiediamo per la Chiesa universale. Ecco come si esprime in merito la preghiera eucaristica seconda. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e unione con il nostro Papa, il nostro Vescovo e tutto l'ordine sacerdotale. Il canone romano espone queste stesse intenzioni con parole che comportano grandi conseguenze. Si prega a Dio per la Chiesa, quam pacificare, custodire, adunare et regnare digneris toto orbe terrarum. In primo luogo, supplichiamo il Signore di concedere la pace alla sua Chiesa. Per questo occorre domandare ogni giorno a Dio che protegga il suo popolo e lo liberi dai suoi nemici, non solo da quelli di fuori. Più pericolosi sono in effetti coloro che possono nascondersi al suo interno, seminando errori, scismi e divisioni. L'ultima supplica si leva a Dio come un riassunto di tutto quanto è stato detto in precedenza. Ci rivolgiamo al Signore, al buon pastore del nostro gregge, perché guidi la Chiesa sulla strada del cielo, ben unita ai pastori che lo rappresentano sulla terra. La garanzia del governo divino della Chiesa si trova nella strettissima unione con il Papa e con i Vescovi in comunione con il Romano Pontefice. Tale unione è talmente importante che dobbiamo sentirne profondamente l'esigenza nella nostra anima. Consideriamo come ci colpiscono tutti i piccoli o grandi terremoti spirituali che si verificano nel mondo. Ci commuovono personalmente, ispirano nel nostro cuore il desiderio immediato di pregare. Non sarebbe cosa buona restare indifferenti di fronte alle gioie, alle pene, alla vita ordinaria di questa umanità, della quale noi cattolici formiamo parte integrante. Se così fosse, vorrebbe dire che non siamo pienamente cattolici. Il canone romano prevede due momenti durante i quali il sacerdote prega in silenzio per i vivi o per i defunti. In quegli istanti possiamo mettere nelle mani di Dio tante intenzioni. San José María non si abituava mai a questa conversazione filiale con la Trinità. Diceva in proposito: faccio un memento molto lungo, ogni giorno con colori diversi, con vibrazioni nuove, con luci la cui intensità può variare. Il comune denominatore della mia offerta della messa è però sempre questo: la Chiesa, il Papa e l'Opus Dei. E precisava: mi ricordo di tutti, non posso fare alcuna eccezione. Non dico quello no perché è un mio nemico e quell'altro nemmeno perché mi ha fatto del male, e neppure quello là perché mi ha calunniato, mi diffama, mente. No, io mi ricordo di tutti. Seguiamo anche noi questo esempio, pregando ogni giorno per tutti quanti, in modo che la nostra anima raggiunga gli estremi confini della terra. In seguito, il celebrante prega esplicitamente per tutti i presenti, dei quali conosci la fede e la devozione, per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. Comportiamoci audacemente. Presentiamo al Signore intenzioni grandi di santità personale, di conversione, di abbondanza di frutti apostolici in tutta la Chiesa. Nulla è impossibile da ottenere grazie a questa supplica che Cristo stesso, in quanto capo del corpo mistico, eleva al Padre Celeste. Ricordiamoci specialmente di coloro che più ne hanno bisogno, anche se non li conosciamo. Chiediamo per le attività della Chiesa nei luoghi dove è più difficile svolgerle a causa di guerre, persecuzioni, mancanze di risorse, o perché non sono luoghi cristiani. Preghiamo per i posti dove l'evangelizzazione è incipiente. Percorriamo nella nostra orazione tutti i continenti, praticando e vivendo intensamente la comunione dei santi. Anche affinché tali suppliche vengano meglio accolte in cielo, invochiamo come intercessori la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe, suo sposo, i santi apostoli e martiri e tutti i santi. Commentando questa parte della messa, Giovanni Paolo II osservava: la tensione escatologica suscitata dall'Eucaristia esprime e rinsalda la comunione con la Chiesa celeste. L'Eucaristia è davvero uno squarcio di cielo che si apre sulla terra. È un raggio di gloria della Gerusalemme celeste che penetra le nubi della nostra storia e getta luce sul nostro cammino. È più che logico riempirsi di gioia per la vicinanza di tutti i santi, nella consapevolezza che ci sono sempre molte anime sante nel mondo. Alcune sono o si sono trovate a fianco a noi e siamo stati stimolati dal loro esempio, dalla loro condotta, dal loro interesse per il bene degli altri. Questa amicizia con coloro che abbiamo frequentato ci porta a considerare che tutti i santi del cielo hanno un vero interesse per noi che ancora camminiamo sulla terra. È evidente che coloro che hanno saputo amare quaggiù i loro fratelli e le loro sorelle continuano a farlo con maggior forza e continuità in cielo. Nel concludere queste prime preghiere di intercessione, prima di invocare lo Spirito Santo e di pronunciare le parole di Cristo nell'ultima cena, il canone romano mette sulla bocca del celebrante una preghiera, Lang-Igitur, che ricapitola tutto ciò che è stato chiesto sino a quel momento, con il desiderio di non lasciare nulla al di fuori della Santissima Oblazione. San José María si concentrava soprattutto sulle ultime parole, assaporando la petizione della Chiesa: salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. In quei momenti, come ebbe più volte a dire, teneva presenti tutti i cristiani e in modo particolare i fedeli dell'Opus Dei. Quando ogni giorno nella messa, estendo le mani sulle oblate, sul pane e sul vino che stanno per trasformarsi in virtù delle parole della consacrazione nel corpo e nel sangue di Cristo, metto lì voi tutti, figlie e figli miei, in electorum tuorum iubeas grege numerari, affinché il Signore voglia annoverarvi tra i suoi eletti. Non perché ci consideriamo eletti, ma affinché ci sentiamo fermento per aiutare gli altri. Nel considerare queste realtà si finisce con il formulare il proposito di agire e di pensare sempre per amore. In mezzo a tutti i nostri errori personali viene un ardente desiderio rinnovato e incontenibile che anche altri partecipino di questa nostra felicità. Questa orazione devotamente recitata serve altresì per agire con decisione di fronte a tutto ciò che ci allontana da Dio, con la lealtà propria dei figli di Dio che hanno il coraggio di fuggire le occasioni di peccato. La Messa, azione trinitaria. La presenza del Paraclito è costante nel cammino della Chiesa. Cristo stesso ha promesso la sua perenne assistenza prima di salire al cielo. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre. Giovanni 14,16. A volte la sua presenza si manifesta in maniera evidente nella storia. Altre volte non è meno reale e concreto il suo intervento nelle circostanze ordinarie. Il fondatore dell'Opus Dei insegnava a riconoscerlo soprattutto nelle situazioni normali della vita: in un laboratorio, nella sala operatoria di un ospedale, in caserma, dalla cattedra di un'università, in fabbrica, in officina, sui campi, nel focolare domestico e in tutto lo sconfinato panorama del lavoro, Dio ci aspetta ogni giorno. Sappiatelo bene, c'è un qualcosa di santo, di divino, nascosto nelle situazioni più comuni, qualcosa che tocca a ognuno di voi scoprire. Il fatto che la provvidenza ci assista senza sosta fa parte della giustizia infinita e perfetta di Dio. Nulla del mondo né dell'umanità gli è estraneo, anzi, persino l'ultimo sospiro della nostra esistenza, persino il più piccolo dettaglio della nostra giornata gli interessano. Risuona con forza la promessa di Gesù: non vi lascerò orfani. Giovanni 14,18. La presenza e l'attività dello Spirito Santo si realizzano in modo particolarissimo nel sacrificio della Messa. Nell'esortazione apostolica Sacramentum Caritatis, Benedetto XVI spiega: nell'Eucaristia si rivela il disegno di amore che guida tutta la storia della salvezza. Efesini 1, 10, 3, 8, 11. In essa il Deus Trinitas, che in se stesso è amore, Prima Giovanni 4, 7, 8. si coinvolge pienamente con la nostra condizione umana. Nel pane e nel vino, sotto le cui apparenze Cristo si dona a noi nella cena pasquale, Luca 22, 14, 20, 1 Corinzi 11, 23, 26, è l'intera vita divina che ci raggiunge e si partecipa a noi nella forma del sacramento. Dio è comunione perfetta di amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Già nella creazione l'uomo è chiamato a condividere in qualche misura il soffio vitale di Dio. Genesi 2,27. Ma è in Cristo morto e risorto e nell'effusione dello Spirito Santo dato senza misura, Giovanni 3,34, che siamo resi partecipi dell'intimità divina. Gesù Cristo dunque, che con uno spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, Ebrei 9,14, nel dono eucaristico ci comunica la stessa vita divina. Si tratta di un dono assolutamente gratuito, che risponde soltanto alle promesse di Dio compiute oltre ogni misura. La Chiesa accoglie, celebra, adora questo dono in fedele obbedienza. Il mistero della fede è mistero di amore trinitario, al quale siamo per grazia chiamati a partecipare. Anche noi dobbiamo pertanto esclamare con Sant'Agostino: se vedi la carità, vedi la Trinità. De Trinitate, ottava 812, CCL 50287. Continuando perciò la meditazione delle orazioni dell'ordinario della Messa, riscopriamo e apprezziamo nel suo ineffabile valore la presenza santificante della terza persona della Trinità. Un flusso trinitario di amore si riversa costantemente sul mondo, insegna San José Maria, e aggiunge: e dove avvertirlo meglio che nella Messa? Tutta la Trinità agisce nel santo sacrificio dell'altare. Per la volontà del Padre e con la cooperazione dello Spirito Santo, il Figlio si offre come vittima redentrice. L'epiclesi o invocazione allo Spirito Santo. Nel pregare l'una o l'altra delle preghiere eucaristiche, Possiamo rallegrarci scoprendo i diversi modi nei quali viene descritta l'azione del Paraclito. lo invochiamo specialmente in questa orazione, detta Epiclesi, mediante la quale la Chiesa prega il Padre di mandare il suo Santo Spirito sul pane e sul vino, affinché diventino per la sua potenza il corpo e il sangue di Gesù Cristo. Questa invocazione non manca in nessuna preghiera eucaristica, poiché la cooperazione dello Spirito Santo è un dato definitivo che permette di consacrare. Lo stesso Spirito che operò il prodigio dell'incarnazione nel seno della Vergine Maria ci porta Cristo sull'altare, come recitiamo esplicitamente in una delle preghiere. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore, in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Si perpetua così, grazie all'Eucaristia, la presenza reale e vera dell'umanità di Cristo tra di noi. Si rende possibile la celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato in segno di eterna alleanza. Il sacrificio dell'altare è una scuola meravigliosa di relazione con la Santissima Trinità, relazione che dobbiamo sforzarci di accrescere ogni giorno. Assistendo alla Santa Messa imparerete a trattare ciascuna delle tre persone divine: il Padre che genera il Figlio generato dal Padre, lo Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio. Trattando una qualunque delle tre persone, trattiamo un unico Dio, e trattandole tutte e tre, la Trinità, trattiamo ugualmente un solo Dio, unico e vero. Siamo grati a Dio per questa indulgenza verso tutti e verso ciascuno di noi. Trasecoliamo davanti al disegno ammirabile di un Dio tre volte santo, che pone le sue delizie tra i figli dell'uomo. Pietro 8,31. Divinizzati e fortificati dalla partecipazione alla Santa Messa, lanciamoci con decisione in un apostolato audace e fiducioso. Il Signore invia i cristiani in tutto il mondo, come nei primi momenti della Chiesa, nella potenza dello Spirito Santo. Matteo 28, 19, 20. Marco 16, 15, 18. Il Paraclito infonde e sostiene in noi questa santa inquietudine di Cristo, alla quale ha fatto varie volte riferimento Benedetto XVI sin dai primi giorni del suo pontificato. Per colui che si sa e si sente apostolo, non è indifferente che tante persone vivano nel deserto, in luoghi aridi, lontani da Dio e dagli uomini nostri fratelli. Come riassumeva il Papa, vi sono tante forme di deserto. Vi è il deserto della povertà, il deserto della fame e della sete. Vi è il deserto dell'abbandono, della solitudine, dell'amore distrutto. Vi è il deserto dell'oscurità di Dio, dello svuotamento delle anime senza più coscienza della dignità e del cammino dell'uomo. I deserti esteriori si moltiplicano nel mondo perché i deserti interiori sono diventati così ampi. Solamente lo Spirito Santo, che è Signore della vita, può rendere fertili queste terre spiritualmente secche e trasformarle in oasi dove torni a germogliare e a fiorire la ricchezza soprannaturale che ci è stata concessa, quella vita che con la grazia rende gli uomini e le donne anche più umani. Ogni giorno, nella Santa Messa, il Paraclito si effonde sulla Chiesa per vivificare i deserti che abbondano nel mondo. Discende per santificarci e darci l'impulso per continuare la missione apostolica dei primi dodici. Gesù stesso presente in noi ci invita: «Duc in altum, prendi il largo» Luca 5,4,11, a navigare per i mari del mondo e a gettare fiduciosamente le reti nel suo nome. È di nuovo una raccomandazione di Benedetto XVI. Noi uomini viviamo alienati nelle acque salate della sofferenza e della morte, in un mare di oscurità senza luce. La rete del Vangelo ci tira fuori dalle acque della morte e ci porta nello splendore della luce di Dio nella vera vita. È proprio così. Nella missione di pescatore di uomini al seguito di Cristo occorre portare gli uomini fuori dal mare salato di tutte le alienazioni verso la terra della vita, verso la luce di Dio. È proprio così. Noi esistiamo per mostrare Dio agli uomini. Promuoviamo perciò in noi stessi e negli altri il rapporto intenso con il Paraclito affinché illumini le nostre coscienze. Supplichiamolo di concederci i suoi doni, in modo che i suoi frutti crescano abbondantemente in noi e informino tutto il nostro agire. Consideriamo con profondità che Cristo, nostro Maestro, nostro amico, ha compiuto ogni cosa, come ci ricorda ripetutamente il Vangelo, pieno di Spirito Santo e mosso da Lui. Fu seminatore di pace e fu vittorioso sulla morte e sul peccato in perfetta unione con il Paraclito. Per tale motivo siamo invitati, se davvero siamo interessati alla santità, a cercare il modo di far crescere ogni giorno in profondità e in intensità la nostra devozione allo Spirito Santo.